fanno filtri, adesso i citofoni lavorano sull'elettronica, non lavorano, prima lavoravano un alimentatore, l'alimentatore praticamente tramite radiofrequenza manda fa l'audio sia in trasmissione che in ricezione. Adesso comunque tutta elettronica, quindi sono filtri, controfilti e ci può anche stare, ma il citofono meno male entri, solo lo ti può sentire in quel momento che sta rispondendo al citofono. La televisione è più impegnativa, chiaramente se mette nella televisione e si fa vedere, che ne so, 4-5 ore al giorno, come parlavamo noi, anzi io parlavo anche molte volte dalle 6 di sera fino alle 6 di Mangiano, è un po' preoccupante la situazione. Però ripeto, adesso, oggi come oggi, con le antenne nuove, con i nuovi amplificatori, con i nuovi, perché non c'è nient'altro, l'antenna c'è, cioè l'amplificatore, perché ormai c'è la torrente in più, i centralini sono già un'uscita sola e un ingresso pure, quindi i partitori hanno già effetti di protezione, oggi come è difficile entrare in un televisore, a meno che chiaramente non ci sia, sì, la radiofrequenza, ma tu devi avere comunque un capo nudo che fa la televisione per prendere la mia radiofrequenza, e io devo avere comunque un'antenna CB di merda, di quelle che invece di radiare verso l'alto, irradiato ehi, amata lì non ce l'ha come prerogativa il fatto di disturbare, anche dalla macchina disturbava. Una volta stava facendo una telecronaca dalla macchina, stavo aspettando che aprisse la serranda di un CAF, è arrivata la tipa e stava facendo la telecronaca, ha detto caglia tutti i mutanti da giubilo come ti sei incinato. E quella lì l'ha sentito nel computer, capito, da dentro, mi stava, dopo che lì ha aperto il trattamento, acceso il computer e l'ha sentito che mi stava facendo la telecronaca, che ha entrato dentro, mi l'ha detto, non mi ha figura, tu rumore di rimutanti l'avevi udito. Vabbè, Natale, ma allora sei proprio un problema tu, E cosa c'entro io, mamma mia? Ho capito, devo smettere di modulare. No, questo l'ho fatto qua per drammatizzare un po', dai. No, cosa c'entra? Non bisogna mai rinunciare alle proprie passioni, però si riesce sempre a trovare un punto d'incontro tra uno e l'altro, cioè non è che per forza tu devi rinunciare, lui non deve rinunciare a parlare alla TV e tu non devi rinunciare a parlare al baracchino, si raggiunge un punto d'incontro, in un certo qual modo il problema lo si risolve per forza. E dimmi tu come ti lo devo risolvere, pure il televisore devo comprare, no? No, ma non c'entra niente, il televisore lo puoi comprare anche nuovo, il televisore non risolvi niente, perché la radiofrequenza sicuramente sta entrando dall'antenna, non è roba di televisore, il problema è che se una persona che comunque è nata per rompere i coglioni, stai tranquillo che te lo troverà, anche se risolvi il problema, qualche altra cosa te la trova. Vabbè, capito, la prossima volta mi rompe le balle, prendo, ne accendo l'antenna e ne modulo più, almeno non lo disturbo più. E gli dai finta, e allora gli finta. Sì, tu cosa ne pensi? Guerra per la vita. Vabbè, è una questione di guerra, è che non gliela puoi dar finta, comunque non è che mi tolgo l'antenna, io mi privo di una mia... solo perché tu hai, cioè il problema lo dobbiamo risolvere. Ok, ma se io ho tutto in regola e ho la possibilità di, cioè come parliamo di 5 watt di un apparato normale che disturbo lo stesso, il problema non è il mio ma è il tuo, quindi vedi un pochino. Non specifico, 2 watt, io sto dicendo con 2 watt. Misurati al wattmetro, 2 watt, perché ci può regolare la potenza di questo. Sì, comunque Natale, io non ci credo che tu con 2 watt a questo qui lo disturbi, perché non è una cosa possibile, a meno che non hai il connettore, il PL dell'antenna del baracchino collegato al suo televisore, di pazienza, perché io ti porto qui a casa, la metto in laboratorio qui, ti faccio vedere che la televisione è lì, butto il capo, sguaino un pezzo di RG58, lo metto lì vicino al capo dell'antenna e non mi disturbo. Cazzo, manco io disturbo la mia televisione, anche mettendo questo qui a manetta. E non mi disturbo. L'ho fatto attaccare alla mia antenna e lo disturbavo ugualmente. Vuol dire bene che cosa l'impianto suo che non funziona. Ecco. se la matematica non è un'opinione sempre. Guarda, questi problemi succedevano anni fa, quando praticamente io avevo risolto alcuni problemi, avevo trovato alcuni problemi in alcuni appartamenti che avevano un contattore della luce in comune, nel senso che utilizzavano il contattore, un contattore solo, avevano dei contrascatti per pagare le spese. Allora sì, era un rientro di radiofrequenza in rete. Però se tu c'è il tuo contattore che si va all'usuglio, non so proprio come descrivertelo il problema tuo. Magari mi ne pure di la corrente attaccato a me, io so che mi pure la bulletta suia, non lo so. E tu chiudi il rubinetto dell'acqua e vedi, se si lamenta, se non ha luce vuol dire che te la sta rubando. Oh, io già. E io dai, nel frattempo stavo cambiando barattino perché per far girare un po' tutti che sono un po' fermi in questo periodo. E io stavo riparando delle cosettine qua e ne avevo uno appoggiato sul bancone, forse un anno e mezzo, che dovevo controllare, non avevo cassazione base, realisti, e dovevo sempre metterci in mano, e oggi gli ho dato una botta a uno e una botta all'altro. E l'ho messo a posto tutti e due? Sì, sì, sta funzionando adesso, devo solo riprendere l'alimentatore originale perché non c'ha un transistor passato, non ho un equivalente. Roba vecchia, questo c'ha bravo, questo 50 anni. Ma tanto sono trattori, andano esempi. Quelli che facevano prima è tutta una cosa diversa. Il circuito ci si può lavorare, non è di quelli con tutti i componenti piccolini che ci vuole la lente per fare i lavori. No, questo qui me l'hanno dato tempo fa, me l'hanno regalato, era sopra uno scaffale, mi ha detto che portatelo via. E l'avevo messo qui sul banco e non avevo neanche aperto e controllato. Avevo acceso, non sentiva niente. Da poi ho trovato in campagna che avevo quei portatili vecchi, quelli tipo l'MS200. Aveva lo stesso finale audio, l'ho tolto, l'ho piazzato qui e già l'audio l'avevo risolto. Però quando riceveva segnali fischiava, allora ho dovuto fargli delle modifiche, cambiare dei condensatori, provare i valori, e comunque queste cose senza schema non è che puoi fare, sai. E dai, ti sta divertendo. Sì, qua te lo metti a posto del tutto e vabbè, dai, è un modo come altro per passare il tempo. Poi se tu non c'hai la passione lo fa volentieri, dai. Tino, avanti. Sì, stavo per entrare per dirvi che devo uscire, quindi volevo schiacciare il mic prima di subito. Vabbè, dai, ne approfitto. Antonio, domani devi scendere? Sì, domani mattina, se vuoi te lo passo domani mattina, me lo metto, adesso me la prendo all'orecchio quando mi corico, no, perché se no me lo dimentico, lo so. Domani mattina sì, mi va bene, ma non chi suonano, dai. Sì, vuoi passare, te lo prendi tu in campagna? Sì, un amore, ti do un bacio, dai. Allora passa, ma non ne voglio, te lo prendi, io sono lì fino alle 3, 2:30, dopo che mangio me ne vado perché ho devo venire qua a farmi la doccia, ho un appuntamento. Niente, però fino alle 2:30 sono lì. Vabbè, poi vediamo cosa c'è da mangiare, se quando voce mi trattengo. Ok, dai, ciao, ci vediamo domani allora. Ciao, ti sono problemi. Riprendi Gianni. Ciao a tutti, ciao ciao, divertitevi. Ciao ciao Tino, buona passeggiata, dai. E anche io fra un po' devo mollare, mi devo fare una doccia, solo che non mi dà figuri, sono sdraiato, sto così bene. Lo so, io devo finire qui, e so che l'acqua non è più come una volta, la vista prima poteva stare neanche 10 ore attaccato, adesso dopo 4-5 ore non è più la stessa cosa, mi viene mal di testa. E invece a me, se ci sto molto tipo attaccato al computer o al telefonino o cose del genere, mi bruciano gli occhi dopo un bel po'. E il dottore mi ha detto che la stanchezza che provoca gli occhi, sempre stanno fisso sullo schermo, ti provoca questa stanchezza agli occhi, e mi ha dato queste gocce da mettere. E come le mettevo queste gocce, che stavo rimasto di bruciare di più, e allora non le ho più messo, le sciacquavo con l'acqua e buh. Sì, no, io mi metto la fisiologica quando mi bruciano forte, perché è come siete riasciugati gli occhi, però mi sono fatto fare dall'ottico un paio di occhiali apposta di quelli da leggere, però con le lenti per computer, per luci LED. Ho capito, sì. E beh, ci vorrebbero quelli, perché poi alla fine gli occhi si stancano, poi quando ci stai molto, se qualche cosa che ti prende, io per dire ho un'altra passione, e di notte tu mi dirai sei macabro, di notte mi guardo l'occulto scuro, mi piace molto, dai, mi un po' rambe. Perché ti devo dire, ognuno ha le sue, come si dice, i suoi punti, le sue cose, anche a me piacciono guardare tante cose, tanti video, però ripeto, gli occhi mi si staccano facilmente, quindi mi sono fatto fare questi occhiali, solo che questi occhiali vanno bene quando sto leggendo, quando sto guardando il telefono, il computer, però quando sto lavorando così sull'elettronica ho quelli con le lenti di ingrandimento, tipo quelli dei chirurghi, e quelli lì comunque non hanno la protezione per le lampade, e qui io sono più illuminato di LED, perché se no non ci vedo la mazza, e quindi quando ne esco sono ubriaco. Ma io ho notato che cambiandoli la gradazione, invece che da 2,5 li ho presi da 3, ho un po', diciamo, non dico del tutto, però ho risolto un po' il problema, mi bruciano molto meno, dai, lo fanno dopo proprio un bel po', prima mi bruciavano all'istante come stavo a guardare la luce, dopo una mezz'oretta mi bruciava, adesso no. Lo so, è così, io me li volevo fare progressivi, però non me ne hanno consigliato perché mi hanno detto che non ho neanche l'1% per quanto riguarda la lettura, e quindi dice ancora è presto, se ti fai un paio di occhiali progressivi, quindi sai che se ti tieni sempre gli occhi e si mettono a fuoco da soli, mi ha detto se te li fai adesso capace che dice tra un anno, magari man mano che va avanti l'età, hai bisogno di 1,5, e dice quindi ce li devi buttare perché non si possono più non si può più far niente. Certo. Natalia, va. Mica, non mi avete neanche fatto salutare a Tino. Ciao Tizio, sei in ascolto. Va bene. Allora, fate quello che dovete fare, io me ne passo in quel rettile, se voi dovete andare via. No, io non devo andare via, ho detto che non ne ho voglia di andare, già vado dopo, non c'è problema. La doccia già sta lì, già mi aspetta. Avanti Antonio. Adesso questa storia della Natalia dell'antenna ti ha preso un po' male, poi la verità. Non è solo la storia dell'antenna, tante altre storie che mi hanno disgustato, diciamo così. Vabbè, poi se non è più come prima la radio, poi non ho risposto, però ripeto, non gliela avrei data vinta così facilmente io. Non gliela sto dando vinta. Tu pensa che per poco me ne cade l'antenna, perché mi ha sciolto i tiranti, mi ha messo un pezzo di coso di legno nel palo per farmelo storto, ho dovuto chiamare i vigili del fuoco, mia, e questo mi ha fatto danno a me. Beh, la miglia lei è... lasciamo perdere, è meglio. Sì, ma nessuno si può permettere di cantare una protesta altrui. Questa come si è permessa? Io posso avere tutti i sapori possibili con te, ma non è che mi posso mettere a parte sotto lo sportello, a parte sotto l'antenna, lo sportello della macchina, no? Attaccarti nel campanello di casa, ma che dice che sono? E intanto l'ha fatto Antu. Vabbè, l'ha fatto la tariffa che gliel'hai permesso tu, perché se andassi gli facessi una bella giuncia non l'avrebbe fatto, cioè l'avrebbe fatto, ma poi avrebbe pagato le conseguenze. Però significa solo che se tu c'hai un disappare con me, ti sei autorizzato a crearmi dei danni. Lui non doveva permettersi. Più vado avanti con gli anni e più non riesco a capire le persone che non si comportano. E anche io non le capisco quando agiscono così. Dopo dicevano quando ero giovane, eravamo un gabù in fumo. Sono i fatti. Purtroppo sono così. Poi me ne sono successe altre di cose, quindi La sorvogliamo, che è meglio, che poi se giro di Gabu, giro Marini, ma chi mi conosce, poi non mi va mai più nessuno. Vabbè, se c'è carità del campo, non è un'antenna, non è un problema. Troverete sicuramente un accordo. Lui ha detto che apre la bottola e me la fa mettere sul tetto, perché lui ha chiuso anche la bottola abusivamente, non si può salire sul tetto. E lui manco l'antenna si può cambiare del televisore se non apre la bottola. Vabbè, non è che per forza c'è necessità di avere una bottola. Se si tolgono quattro tegole e si riesce a uscire dal tetto, è come se ci fosse una bottola. Cioè, non è che la legge dice che per forza deve esistere una bottola. Ci deve essere un accesso al tetto, poi che te lo crei tu o che ce l'hai già. Il campagno è un discorso diverso. Nelle vecchie case comunque si sapeva che la bottola non era contemplata nel tetto. Il tetto veniva coperto dalle tegole, c'erano le travette di legno, poi se volevi uscire sopra, toglievi 3-4 tegole, passavi in mezzo e uscivi sopra. Le bottole sono nate negli anni 80, 90, poi sono nate negli anni 60. Ma questa c'era la bottola qua, l'ha tolta lui, perché io l'ho vista che c'era la bottola quando ci abitava un'altra persona qua. Hai capito? L'ha tolta e ha chiuso tutto abusivamente lui. L'importante è che lui apra il varco e che mi faccia mettere l'antenna sul tetto, così ne la gabu dai nobbi. Vabbè, Natali, lui ce l'ha chiusa abusivamente la bottola, però la bottola, se è bottola, deve comunicare con la scala, con la tromba della scala. Se comunicava col suo appartamento non era una bottola, era un'uscita del tetto dentro il suo appartamento e quindi poteva chiuderlo benissimo. E vabbè, comunque fatto sta che l'ha chiuso, era dentro il suo appartamento, non comunicava con le scale, capito? E allora dentro il mio appartamento io faccio quello che voglio. Vabbè, lui ha detto comunque me la fa mettere nel tetto, speriamo sia così, sino la raga così l'antenna come te. Se vedo che lui me ne sceglie torna e tirante, la prende e me la tolgo e basta. Gliela devi dare vinta per forza, se non ti vuoi attaccare. Sì, ma è così, è come quando tu hai un appartamento, una palazzina dove c'è una mansarda di proprietà, no? Se c'è un terrazzo grande, quindi chiaramente non hai l'accesso libero al tetto, a meno che ci sia il condotto dell'ascensore con il gabbiotto che ti porta giusto a una colonnina fuori. Dove, però, se in alcuni punti non lo hanno mai fatto, hanno fatto una gabbiotta con l'ascensore, con la colonnina, però tutto cementato il tetto che non si può uscire, quindi sei obbligato a passare nel terrazzo, allora chiaramente ti sei permesso, non è che il vicino, cioè quello dell'ultimo piano, ti fa proteggere la mansarda, è un giorno e che lo si chiede, non è che lo si chiede un giorno, mica domani si chiede sul tetto, domani io mica giovedì siamo in tetto, cioè ti concordi, guarda che devo mettere la mansarda sul tetto, quindi hai, ti concordi col tempo, sui orari, sui poi e vai la piazza e ciccia, però ripeto, funziona così. E io lo so benissimo come funziona Antù, e lui gliel'ha detto che la apre questo accesso al tetto e così ero manco lì di Bunilla l'antenna che intanto veniva una sura, va la bongo di l'irico di Bunilla sotto a rubare l'antenna mia di Ruvaracchino, così non lo dico più. Ma scusami già, ma tu questa antenna del baracchino ce l'hai già piazzata lì sul tetto e lui cosa deve aprire? La bottola per fare che cosa? No, io non ce l'ho piazzata sul tetto, la mia è in facciata perché sul tetto non ci potevo salire, non hai capito? Ah, quindi lui dovrebbe aprire questa bottola, salire sul tetto, mettere un palo e mettere la tua antenna su questo palo. E allora? Capito, io bongo bocca a comprare due scaffi come te gli si fa ginocchi, vi ridoggo, te piazzali. E da pure abbia semi impari l'antenna di Ruvaracchino e l'antenna nuova di televisore Zuio. A chi sa che va in Chivi, sarà frasica. Eh sì, comunque te lo consiglio, non piazzarla mai sotto l'antenna del baracchino, compagli un palo a parte, due tappe a parte, perché l'antenna della TV diventa vecchia poi, e magari ti passa il problema oggi e fra 3 anni ce l'hai di nuovo, quindi fagli mettere un palo suo e l'antenna gliela metti sul suo palo, e tu l'antenna te la metti nel tuo di palo. E vabbè, gli dico di comprarsi un palo nuovo e un'antenna nuova, già ci sono le staffe dove è piazzata l'antenna sua, sarà tutta marcia, tipo lampada che si antenna. Il cavo glielo do io, che scende fino a qua, quindi c'è anche il cavo nuovo. Bene, Gianni è andato a passeggiare. Gianni si sarà addormito. Ah, è vero, mi ricordo che ogni tanto si addormentava, ma di notte però. Albone che è addormito. Già, già, così in fretta, non riesce a dormire, manco quando fai buio. Infatti, Gianni, maledetto, addormentato si è, te lo dico io. Stai sbagliando di grosso, stavo cambiando apparecchio. Mi stai dicendo cose che non sono vere. A me mi pare che va la voce in passata di Rusonno. No, sdraiato, era appisolato, ma non è che... stavo cambiando apparecchio, non senti che questo è curato. Ti sto facendo girare per scaldarli, che devono girare ogni tanto, sennò si bloccano e da poi non funziona le pipe. Questo qua come va? Questo qua c'ha 4 watt. Ja, va bene. Prego. Avanti. Buonasera Massimiliano da questa parte, buonasera a tutti. Buonasera Massimiliano, ben ascoltato. Antonio Riserva in compagnia di Gianni e Natalino Alfa 1. Positivo, dai, ciao Antonio, buonasera, ciao Natalino, ciao Gianni. Ciao Massimiliano, ben sentito. Ciao Massimiliano, ben sentito. Scusate, devo fare una telefonata. Cava. Aspetta che mi sto regolando. Sì, il segnale è sempre uguale già, comunque, qualsiasi apparecchio, anche se mettiamo un water, qua devi sempre uguale. Beh, siamo vicini anche tu, aspetta, ti abbasso l'altro apparecchio, mi stavo ascoltando come va questo qua. Ah, sento che va bene, questo qui è il Midland F100, il microfono, l'ho comprato perché erano in offerta, no? E l'abbiamo pagato una fesseria, 19 euro, costavano sulle 45 mi pare. 1900, quello che ci assomiglia alla M300. Esatto. Sì, dovrebbe essere anche uno io qui da qualche parte. Questo qua, se tu aumenti il cursore, si sente anche l'eco, non c'ha... E mi stavo ascoltando come usciva perché lo stavo regolando, capito? Vabbè, in quello il cursore regola solo l'eco. Allora il cursore, se io lo abbasso, quindi l'eco lo tolgo e non lo regola più l'eco. Invece facendo così c'è l'eco. E quindi ho ragione io, regola l'eco, non regola l'amplificazione. Sì, ma lo puoi anche escludere, capito? Sì, no, ti ho capito, però ho detto lo slider che hai su regola e chiude l'eco, non regola l'amplificazione. L'amplificazione la devi regolare tramite il trimmer interno. Ma va bene così, io lo lascio così, guarda. Questa qua secondo me è ideale così. Ho sentito Franco dalla macchina, l'abbiamo preso insieme, ci abbiamo speso una cazzata tutti e due. Mi pare che ci è venuto 15 euro. C'erano le offerte della Midland e li stavano svendendo. Ma l'avete preso su internet? No, qua non c'è neanche questa roba. Su internet l'abbiamo preso. Ehi, abbiamo visto anche da Amazon. Massimiliano, riprendi. Sì, dai, vi lascio al vostro questione. Mi serviva solo un controllo di radio se andava tutto bene. Dai, tutto qua. Abbondante, Massimiliano. Ok, dai, vi ringrazio allora. Buon questione e buona continuazione. Dai. Ciao, ciao. Grazie Massimiliano. Buon proseguimento. Vai già. Ciao Massimiliano, ciao. Dai, va bene la radio, se no te l'avremmo detto. Dai. Cosa stai, andando sui 45? Mi sa che già andà. Niente, sì, no, sono anche io da qualche parte qua. Sto girando l'occhio mentre parlo con te, ma non lo vedo. Ma io non le conoscevo sinceramente, conoscevo le F10, le F12, però questi qua no. Ma lo sai cos'è? Io l'avevo visto tempo fa. se ti fa lo slider. Allora l'avevo ordinato, ho detto così, ne faccio lo slider, glielo riparo e ci c'è, perché è precisamente identico all'M300, uguale. Sì, è vero. Poi va anche molto bene, non so se lo senti, lo sto facendo andare con 3009, con 4 watt e va benissimo la radio. L'ho sentita a Franco l'altro giorno, dalla macchina arrivava una bomboletta. No, sono molto buoni questi microfoni. Ah, praticamente lo stesso circuito del vecchio M300, però questo qui in SMT ha praticamente pochi componenti. Ripeto, per il prezzo, mi sembra che costava, non avevo preso di 18 euro 50 su Amazon, l'avevo preso. Eia, l'aveva dato in offerta anche la Midland, e noi l'abbiamo preso proprio dalla casa, dalla Midland. Ah, ecco, hai capito. Vedi, molte volte, sai, pensi di spendere chissà che cosa per comprare, chissà quale microfono, e poi... Per dire, ti faccio sentire la Static. La Static è un bel microfono, amplifica bene, però c'ha troppi acuti. È un microfono che a me non è mai piaciuto, specialmente per il tasto che ti calcareggia il dito, perché c'ha il tasto quadrato e ti entra dentro il dito, alla fine il dito non ce la fa più a fare forza e quindi molli un po' e a volte non esci di radio. Ah, ecco, tu ti dicevo, l'ha fatto quello argentato. Cappa, quello che ha la RT. Sì. Lo conosco, quello lì. Diciamo che hanno studiato un po'. Dovrebbero ritornare ai vecchi microfoni, tipo quello che io in mano, che è l'originale di questa radio, che sarà degli anni 70, penso anche, sì, anche qualcosa, sì, anni 70, perché già 40 anni, se no sarebbe stata 23, era proprio un microfono, ma è di una bellezza, così morbido, diciamo stilalato ancora originale, di quelli morbidi, è bello. Per dire, nella Static io l'ho dovuto cambiare il cavo, perché se la guaina si era tutta quanta marcita, si faceva a pizzi, si vedeva il filo, l'ho dovuto cambiare quella, e da Fusaro non avevo trovato il cavo che volevo io, quello morbido, diciamo corto, normale, e ne ho preso uno, sarà 2 metri, di questo cavo spiralato che mi posso girare a letto, fare tutto quello che voglio e arriva sempre, perché è un bel lungo. Sì, lo so, ma anche Fusaro oramai lo usavo, non c'erano mai niente, tutte le volte che va, che sono andato non c'erano mai niente. Hai finito di rompere i coglioni, Sì, si fa. Vabbè, l'antenna l'ho comprata da lui. Punto frosso che non si chiama, ti ho sentito, Lu, ciao. Ciao Lu. Anto. E allora, tutto a posto? Sì, Anto, è una parola, tutto a posto, via. C'è tanto di lei un gado, vedi filmato, piazza. Cazza di Aulu, cazza. Ehi, vabbè, dai Lu. Se lo puoi dire, vuol dire che va quasi bene. Sì. Già, ma mi state ascoltando, sì, questo è sempre perché era fermo nell'iPhone, insomma sta andando bene, si avvita, vedo lo smitter e sale, però vediamo un po', mi si avvita, sì, era fermo da un po', non saliva lo smitter, non ci va di radio. Ripeto, se no i miei qua, guarda, adesso tu dirai, sono 2 anni che non entro, no? E sto adesso modulando con questo canale vecchio, tutto grande e vaggio, tutti i canti di Marachini studati, ci sono 2 Galaxy Saturn Echo, 20, 2 HF, che non dico il nome, un Magno S9, allora 48 non li va vedere. Tutti fermi, e io quello che sto vedendo ho visto già Frusaglia. Sì, ma non capisco il perché, sono da gennaio, febbraio mi pare, non usciva di radio. Poi man mano vi ha scaldato, ha iniziato a uscire di radio, strappando, vero? Già ti ricordi? E vabbè, ma erano i condensatori che dovevano caricarsi di nuovo. Antu, cosa ti sto facendo? C'hai 2 Saturn Echo, ma funzionanti? Sì, uno addirittura in tonso. Il nuovo modello, quello che invece di avere l'interruttore con la leva c'ha il pulsante. Scappa, non lo conosco. conosco, ma c'è frequenzimetro anche. No, no, io identico già, lo sottotetto, però invece di avere tutti quanti le vette come c'è già il sattone normale, però l'interruttore, proprio solo l'interruttore, invece di avere la levetta su e giù, sarà il pulsante. Ho capito, sì sì. Ma c'è anche perché ci sono dei modelli che praticamente tipo cosa ti posso dire? Ci sono dei modelli che ha fatto la Midland eccetera uguali a Saturn Eco, ma non hanno frequenzimetro. No, questo qui è proprio Saturn Eco della Galaxy. Ce l'ho quello senza frequenzimetro, ne ho anche uno senza frequenzimetro, sempre della Galaxy, l'SSD Eco, è uguale niente, qua quello senza frequenzimetro, che ha display dei cani più grandi, quello me l'avevo dimenticato, l'ho visto adesso qua in alto. Ma erano in riparazione, sono in riparazione o sono tuoi? No, sono tutti miei, che avevo lasciato fermi da anni, ogni tanto li accendo, non parlo, cioè non c'ho tempo già. Adesso perché appunto di sabato dovevo riparare queste cose, stavo dimenticando qualcosa perché non ne ho mai tempo. E anche io ce l'ho il Galaxy Saturn Eco. Questo qui è il 3009, questo con cui sto uscendo, e penso che vada bene. Poi c'ho anche il Ruiz, non so se tu lo conosci, ma penso di sì, quello è un signore apparecchio. Sì, che lo conosco lui, io ho praticamente oltre a questo che ti ho elencato, c'ho anche il 3009, però il mio è marchiato Connect, originale, quello con la scheda ET 3006, quello proprio... poi cosa faccio? Non mi ricordo, c'è qualcuno in pacchetta, c'è un magno un HP45, l'S9, e vabbè un po' di roba già. La lasci tutta la ferma. E l'HF cosa c'hai? L'HF ho un 440, un 140 e un 430 da riparare. Sei bella attrezzata. Sì, non mi chiama in e dopo abbiamo preso così. Funzionano tutti, però non, ripeto, non c'è tempo, con un po' più di calma magari. Vabbè, tu li ripari qui, li puoi anche detenere, non ci sono problemi. E poi è cambiato anche tipo di lavoro, quindi non ne stai più nemmeno riparando e ti trovi di meno in quella stanzetta dove li riparavi, dai. Esatto, adesso ci sono qualche cosa che faccio per qualche amico, ma non rispetto io così, no. Questo. Adesso mi ha regalato per sistemare l'antenna al babbo, a casa del babbo, che si è messo l'antenna, mi ha detto, mia, tu non è che mi fai la controllare, se non ti preoccupare, l'avevo messo nella macchina, no? Ero andato con la mia macchina e era rimasto in macchina, poi al lavoro stavo andando con l'altra macchina e quindi è rimasto mesi e mesi dentro con la macchina e quando mi hai chiamato non sapevo neanche dove l'avevo messo. E me lo ricordo che l'avevi detto che ce l'avevi in macchina, già me lo ricordo, sì, ma che si va a vedere di un anno fa. No, un anno proprio no, ma all'inizio delle piogge, dai, era ottobre, novembre, dai. Avanti Luca. Sì, no, io ho messo il 3009, l'ho messo a parte, adesso sto vedendo il vostro iPhone, perché ho messo in vendita, se trovo qualcuno se lo compra, fuori, per modificarselo, adesso vediamo. Cosa è il typo? Sì, quello era di Antonio, era, ma l'aveva dato Roberto Quadrato. E gliel'aveva dato Franco Delta 1? Se l'avevo trovato a Franco Delta 1 a Olbia, una concessionaria che stava facendo l'officina nuova, stava piantando i ponti. Sì, sta facendo quella roba lì. Ma chi fra? Franco Delta 1, Ho detto, chi di rompere i coglioni? Ah, Franco, ma non la chiesa va a comprare, la ciabba di travaglio. Vabbè. E aveva fatto il meccanico, ne ha fatto un po' di lavori, Franco. Vabbè, Franco era nato meccanico, lavorava alla Calvi, quando facevano veicoli industriali, lì, via del produttore, dove c'è il sottotitolo della Gusciano, che adesso è Carrefour, no, è Conrad. Ehi, ho capito, sì. e poi da lì, no, da lì si era trasferito, lavorava con l'Elio Carta, Gianetta. Poi no, già ne ha fatto, ha lavorato anche con Coso, con Sergio Farri. C'è dato da fare, da. E vabbè, da ragazzini faceva fuori tutto. Lui, quando eravamo ragazzini, si andava a destra che era la sinistra. Io sono facendo il carrozziere, in quel periodo lui stava lavorando da Sergio Farri. Poi lui è andato alla casa, io stavo facendo in fissi all'aluminio. Ma dai, da un lungo all'altro. Allora si trova per lavoro, almeno si poteva cambiare. Già, si poteva cambiare, ma di là è sempre pochi, non ci campate la famiglia. Dipende da che tipo di lavoro facevi. Io quando sono entrato a lavorare mi ricordo prendevo 500.000 lire. A me mi davano un tot a settimana, mi pare che non 150.000 lire a settimana. E quindi erano sì, 600 euro al mese, ma non erano sicuri, cioè non ti potevi comprare manco la macchina perché non avevi butta paga, ti va bene che si conta la blu fresca. No, io grazie a Dio sono stato sempre fortunato. Vabbè, a parte quando ho lavorato da multula, che poi vabbè, la finanza l'aveva beccato e voleva mettere la multa anche a me perché non mi aveva assicurata. E poi dopo lì ho lavorato sempre assicurato, sempre. E sono stato fortunato, io invece un po' me li hanno fregati, un po' non li ho voluti perché ho preferito solo i più, perché a quel momento avevo necessità di soldi, c'era lavoro da fare, o lo fai, mi hanno detto, o così o niente, e io avevo bisogno comunque di realizzare. E vabbè, tante volte si fanno degli sbagli che poi ti penti, dai, non te li ritrovi ai fine di pensione, poi te ne vai in pensione quando sei vicio. E vabbè, intanto con le leggi nuove dello Stato già non c'è pericolo che vai in pensione quando sei giovane. Vabbè, e per dire, i polizia vanno presto in pensione, io ho amici che a 50 anni erano già in pensione. Ehi, polizia e marina, se io fossi rimasto in marina sono andato in pensione a 39 anni. Fatti un conto, comunque. Dipende sempre dove vai e le condizioni che sei. Però mi stavo imbarcato e dopo 3 anni con questi signori coglioni. Mio suocero aveva fatto 10 anni in marina, poi è andato in polizia, via, e se n'è andato come ispettore. No, io avevo provato nei vigili del fuoco con l'ultimo concorso. L'ultimo concorso con la categoria avevo fatto 04, come meccanico, perché io ho la qualificazione di motore e promotore. L'avevo fatta con niente. A quel punto sono riuscito a passare. Allora abbiamo la stessa qualifica, io sono saldatore elettro ossia acetilenico. No, io ce l'ho tutta la qualifica di tutti i saldatori, poi ho il torretore e il distruttore meccanico. E poi quella lì l'ho presa a scuola, poi ho fatto un altro corso, un'altra scuola, ho preso la qualifica di elettricista, poi ho fatto un'altra cosa ancora e ce l'ho fatta. Già, se mi vuoi. Vabbè. Sono tutte cose messe da parte che poi io l'ho utilizzata, la qualifica, ho lavorato alla Montubi, ma poi è andata in fallimento e sono entrato al Turismo anche per lavorare. Sì, anche io, no, ero entrato, avevo fatto un po' operatore, qualcosa, ma ripeto, un anno e mezzo, poi hanno demolito tutto e facevo saldatore. E niente da fare, no. Scusate un attimino, che mi sta scurando il telefono, riprendi Luca. Io sono in fase di uscita. Esci. E ora vai già, casa mi tocco. No, fai bene, fai bene. No, io adesso mi devo fare una doccia, ma non mi dà sicuri, su con cucato. Non mi dà sicuri a bisammini. Sto così bene. No, l'ho già fatta, già. Stava rossa vicino a casa, la vicina di casa. Io ho fatto un po' di salsiccione, pancetta, come si chiamano le altre? Le adesso mi ricordo il nome. Sono di maiale. Siamo un bel di osso. Un abbraccione. E me brucia! No, un abbraccio, ciao Emanuele. Oh, così. Capo. Ebbè, Emanuele. Allora, buonasera a tutti. E allora Emanuele, in libertà sì. Ebbè, cazzo, babbo di Guimisuri. Quindi ciò è fatto. Cazzo, allora. Domani mattina se devo uscire sì. E dove sei domani? A Fiume Santo. Ehi, già è vicino, là. Ehi, lo so che è vicino, ma cazzo mi devo fare 3 risuri domani. Non ti basta più. Per carità. A te c'è cosa ti conviene, metterti in baracchino e macchina e modulare. E io non ci arrivo neanche da lì. Allora non ci arrivi, ma ho ci agallai. Arriva a 9:15 io da Fintino. Oh. Ci arrivi e per Sassari la zona è buonissima quella, è proprio zona buona. Ma non so proprio Stintino, so dove c'è la centrale di Fiume Santo, e lì è in un fosso. Noni, che accompagnavamo un amico e partiva da Sassari 9:15 e arrivava a 9, quando arrivava lì a Fiume Santo lavorava lì. Falso. Quella lì è una zona buona, tipo le baracchine ma te ne stai seduto al calduccio e ogni tanto scendi e controlli e poi te ne stai lì. Calduccio, cazzo domani mi sciumeggio i vivi a quel calduccio, lo marisoli in docca i vivi. E non ce l'hai posti all'occhio? No, infatti vi ho portato l'ombrellone con lo sdraio domani. E così fai il turista. Cazzo me la fotte, non ve ne sciuro intanto. È deserta quella zona, non lo so com'è. Ma è la strada che va per entrare a Fiume Santo, dove c'è l'entrata, quella strada lì. Questa là dove c'è la clarina rosa, rossa. Ho capito, da. E io a Fiume Santo sono andato tante volte a consegnare, capito? Consegnavo lì dove c'erano gli uffici. E lì sono, dove praticamente le mani, proprio dove c'è l'entrata di Fiume Santo, la centrale. C'è il cancello che c'è la strada che ti porta direttamente in spiaggia. Ho capito, sì, l'ho capito dove sì. E lì andavano a pescare dove c'erano i basconi. Esatto, proprio lì sono, per carità, ho c'è la storia brutta. E mi sa che mi trovava in spiaggia nel dardo. Lì c'avevo un amico che andava a pescare, ci aveva comprato la guardia giurata, quando usciva gli regalava, non sai quante orate prendeva, gli regalava un'orata quando usciva ed era pagato, vai, non va di entrare. Vabbè dai, riprendete voi, dai, che mi stacco io. E mi preparo la roba, per domani mattina se devo uscire, minimo alle 5:30 da casa. E a che ora devi entrare a lavorare? Alle 6. Allora, anche prima, Manuele, fai il conto che per arrivare a Porto Torre ci vogliono 20 minuti, e arrivare lì a Fiume Santo ci vuole più di 30 minuti. Già lo so, cazzo non è una bocca che la vostra, per carità. Era giovata per 36 anni, per 42 anni. Tutto cazzo a mucche sa clara, tutto a mucche, non vedo una clara mona. Già lo so, ti faccio tutta la macchina, è bella macchina, a posto le vesce. Sì, erano l'iniettore sporco, ho cambiato carrere, adesso va bene, adesso mi devo mettergli le gomme, che sto aspettando a Napoli, cazzo ancora non sapevi di che gomme. Perché non te le ordini quelle da internet, te le paghi poco, e vedrai. Ah, io ormai le avevo già prese, le avevo già pagate da un mese fa, pensa a due. E lui vuole, è strano, perché lui vuole che delle paghi prima, poi lui va le compra, non è come tirate i gommisti che vi dai la portata di mano e te le mettono quando... Però lì è strano, adesso è via Sorso e Napoli, ma se l'ho operata la gamba. Non lo so se si è operato. No, già in gamba, solo che c'è stato un problema con quello che prendeva le gomme, no? E sono passati i pompieri, gli hanno chiuso il cappellone perché non c'aveva coso degli strinturi, non era norma. E quindi tu sei rimasto secco, senza gomme. E quindi adesso lunedì gli ha fatto riaprire il capannone, perché deve essere appagato, non so cosa che ha fatto. Ho capito. Lì ci vuole poco, perché se non sei a norma te lo chiudono. Ti chiudono le posti, anche a noi ci controllavano tutti quanti le cinture, le scadenze, tutto. E da solo, infatti per quello che sono nato, volevo una cucina al corno. Vabbè, la convergenza me l'ha fatta, ma dei buoni di gomme. Adesso lunedì, ieri ha fatto la convergenza e per lunedì ha detto che già me ne mette. E adesso è piccolo il locale che ha preso, ma non è grande grande. Quello di via Sosso sempre c'ha. Sempre è in bianca, sempre è sempre visto. Prima era in via Pascoli, in via Pascoli era più piccolo ancora. Via Pascoli c'era il padre, ma quello ha preso lui, io lo so. E anche non lo so, perché se la conosciuto ero meno io. E anche io, conoscevo la mamma, conosco il fratello era insegnante di mio figlio, figurati. Ha fatto militare insieme a mio fratello, Tore, pensa a lui. Lui? Sì, ha fatto militare insieme a mio fratello. Certo. Tore c'ha 54 anni. Ha quasi l'età mia, io ne ho 53. Adesso li zero, già sono 60 e più. Adesso dell'abbia azzurro. No, io ne ho 63. Vabbè dai, riprendete pure, scusate l'interruzione della vostra conversazione, mi stacco, che mi preparo le cose che per domani mattina. Vabbè, ciao Gianni, ciao Luca, ci riascoltiamo, dai. Ma quale disturbo? Non ci ha disturbato niente, dai. Ciao, buon lavoro per domani, dai, stammi bene. Luca, ti sei preparato? Oh, Luca, sei uscito. Avanti, Antonio Riserva, ci sei ancora? Ehi, ciao Manuel, buona persecuzione. Oh, ciao Antonio, ciao, neanche sono entrato così, ma... sentito che c'era pure. Ciao tu. Ciao, no, e non c'ero, ero in QRX perché stavo rispondendo al telefono e niente, però ti ho sentito che stavi fare, ti volevo salutare. Sì, dai, mi ha fatto piacere risentirti dopo tanto, dopo anni e anni. Bene, bene, dai, buon proseguimento allora se stai chiudendo. Natalino, ci sei? Ci sentiamo, dai. Natale, ci sei? Sì, già. Natalino? Ma lui, Natalino che fine ha fatto? Boh, io l'ho richiamato, ma lui ha detto che chiudeva. Ah, avrà chiuso. Comunque si sta mettendo un sacco di paranoia, secondo me. Lo stanno facendo vivere male quel piccolo, capito? Lui stava bene quando era in campagna e faceva quello che gli piaceva, aveva una bella zona lì, modulava tranquillamente, e non disturbava nessuno. Avanti, è andato in Chivi e ha trovato problemi da quando è lì. Il problema è quello che c'è gente ignorante anche lì, non ragionano, capito? Non ragionano, sono quei faraoni, sono quello che dicono loro è giusto e basta, non ci puoi discutere, tu gli hai detto si bisogna trovare un punto di incontro lo trovi con delle persone che ragionano e che si può discutere, ma quelle sono persone prepotenti, capito? Non fa, ti fanno solo incazzare e basta, perché non trovi via di uscita. Ti capisco già, infatti riconosco quelle persone lì che si comportano così, ho mandato a fanculo più di uno, ma però purtroppo lo sai cos'è, che finché le incontri nella tua strada le mandi a fanculo, però quando ci devi vivere a fianco, sopra o sotto, a destra, o un lato o un l'altro, devi trovare per forza, perché sennò la tua vita diventa un inferno di merda. Allora, infatti è quello. Io tante volte gli ho detto trasferisciti in campagna dove vedi, c'è la casa, adesso se l'ha affittata, c'è la casa e ti trasferisci lì, non ci vuole andare perché non va d'accordo con i fratelli, quindi non ci vuole andare per quello. Perché se no lui la casa lì ce l'ha, se ne andava lì e stava da Dio, c'ha l'antenna ancora piazzata, tutto canto, c'ha di fuori, antenne, tutto canto c'ha piazzata. Però vedi, lui non va d'accordo e funziona così, purtroppo quando fai delle scelte, quelle scelte poi comunque ti modificano la vita. Ma io guarda, avrei venduto lì mi avrei preso una casa piuttosto che affitto a Sassari, in una zona buona, tranquilla. Io qua che ne dicano, io non ho mai avuto problemi, grazie a Dio. Sì, all'inizio per farmi piazzare l'antenna hanno fatto un po' di studi, di cose, però poi la gente ha cambiato, ho trovato persone come si deve, qua ci abitano avvocati, ci abitano gente che fa che lavora all'ufficio delle entrate, insomma diciamo che tutta gente è a posto, capito? Gente tranquilla. Lo so, però molte volte capiti in un condominio di persone anziane, dove la gente non capisce un cazzo e tu puoi stare tutta la vita lì a fargli capire che non è così, ma non è così e basta. Allora all'inizio io ho avuto problemi perché c'era l'antenna del televisore che non andava bene. Cosa ha fatto il capo condominio? Le ha detto di fare, gli ha mandato un tecnico, di fare un rapportino, è venuto a casa, io le ho fatto vedere quanto uscivo, ero con 4 watt che stavo uscendo, gli ho fatto vedere gli strumenti, dice ma non è possibile che con 4 watt le disturbi, aspetti che saliamo su, siamo saliti su, il tecnico ha toccato l'antenna e ne è sceso un pezzo. Oltre che c'era la scatola del miscelatore che era aperta senza tappo e entrava tutta l'acqua, ha detto no, qua io volevo mettergli un filtro, ma qua filtri non ce ne vuole, qua ci vuole l'antenna nuova e basta, l'antenna. Ha fatto il rapportino, ha scritto che non ero io che disturbavo, ma che era l'antenna che aveva cambiato. Beh, lo sai che uno mi ha accusato che l'abbiamo lasciata apposta per cambiarla all'inizio. E poi, vabbè, la gente ha cambiato, abbiamo cambiato l'antenna e poi siamo andati tutti gli appartamenti a provare, lui provava, io andavo a controllare e praticamente non disturbavamo da nessuna parte, quindi era proprio l'antenna, capito? Ha cambiato l'antenna e il cavo e è andata bene la situazione, era quello, perché io ero più in alto dell'antenna, anche se non di molto, però ero più in alto, sarà stato mezzo metro più in alto, quindi non ho più dato fastidio, la verità, non mi hanno più rotto le scatole. Già, non so quante volte io ho avuto problemi, ma non andavo più a fare le altre. Ma cos'è questo rumore? Ma tu sei pronto, pronto, ci sei tu? No, un attimo, mi è partito. Sì. Sì, adesso sì, prima sentivo sì, ha sganciato il capo. Stavo dicendo, lo sai quante volte a me mi è capitato quando stavo le antenne, gente che gli dovevi spiegare che non era così. Beh, una volta un cliente, via Porrino, che si afferma, che gli ho detto, guardi che io sto fanno il baracchino, ho detto l'antenna che c'è, non ti ha detto, lo sai cosa mi ha detto? Dopo che gli ho detto che non dipendeva da quello, mi ha detto, e quanto gli ha dato quello lì, quel suo collega baracchinaio, per dire che il problema della nostra antenna? Cioè, tu figurati un poco, questo qui è un ex, era un ex guardia di finanza, lo taggato nel gioco, forestale, che cazzo me lo ricordo di. Ma tu cosa era l'altro questo fumetto? Ma sta scherzando. Cioè, guarda che quell'antenna che avete voi stava sostituita, poi adesso, per carità, se una volta se la sostituite, se no vi tenete il problema. Però ho detto l'antenna, ho detto, del vostro fumetto, non ha niente. E c'è gente che dice, sì, quando c'avevi il baracchino tu sentivamo bene, vedevamo tutto bene, adesso che tu hai il baracchino ci ha creato problemi. Guarda, succedeva tempo fa, succedeva, io mi ricordo quando abitavo in via Giotto, non c'ero solo io che modulavo e capitava alcune volte di avere dei disturbi alla fine, però quando si eccedeva con le potenze, quando si provavano cose particolari, comunque di consigliare che le antenne che avevamo noi erano le vecchie, perché spesso si saliva. Praticamente le antenne che c'erano nel mio palazzo erano antenne vecchie dei primi anni che sono uscite le antenne, quindi anni fai 70, degli anni 70. Praticamente nessuno è salito sul tetto fin quando non sono cresciuto io. Ho iniziato a avere 14 anni che ho iniziato a lavorare sulle antenne e le ho cambiate tutte io, quindi figurati un po'. E lì c'era anche Andrea che modulava nel tuo palazzo, era Andrea Vera. Andrea era il portone attaccato al mio, io ero all'1, lui era al 3. Però chiaramente quando c'è cioè, c'erano tanti, c'era anche quello all'angolo di virare fare lo santo, quel ragazzo che aveva quella Sincarelli, non so se l'hai conosciuto. Ma non ci ho presente chi possa essere, buh. Via Raffaello Sanzio, non mi ricordo. Stai salendo per via Voggino, sali in via Voggino, come giri, a un certo punto che non puoi più salire in via Voggino, giri, proprio nel palazzo che c'è lì all'angolo, nella piazzettina, nel palazzo che c'è sulla sinistra, in alto, c'era un'antenna lì, un avanzo. Ma era di questo ragazzo che aveva questa 5.000 rally. Poi ce n'era una Stellar lì dove c'è una passa in più, in via Bugino, su un altro all'angolo col ponte nuovo, col ponte Rosello. E poi noi eravamo tutti pieni lì intorno, c'era un sacco di gente, no? E c'è la principessa lì vicino. Sì, ma la principessa è nata dopo, io ti sto parlando all'inizio. E vabbè. Già io già li ho conosciuti tutti, ho già con mediane frequenze. Avevo 18 anni quando avevo, no, 18, ne avevo 14 quando entravo in frequenza, il primo baracchino portatile che ho avuto a 14 anni. Io ti parlo i tempi che c'era quella Ringo lì in via Montello, dove poco prima di quello delle vernici, che c'era ancora un pezzo, che c'era Coso, Giovanni 500 alla fine di via Gabriele D'Annunzio, ce n'erano due o tre via Cena Natalino e via Petro Micca, e veniva lì via Buruto. E Giovanni 500 è morto, poveraccio. Già lì c'era Coso più su, Coso, Padre Pio, che anche lui c'aveva l'antenna, eravamo tutti concentrati lì, in quei posti lì. Sì, già me lo ricordo, Padre Pio me lo ricordo. C'era questo Pal Pegasus, non so se te lo ricordi, da via Planizetta modulava, Pal Pegasus si chiamava, modulavamo sempre con quello lì. No, io ci sono delle persone che molte volte mi dicono che non li ho mai sentite. Come ci sono tante persone che io parlavo tutti i giorni che molti non erano, deve essere che sono persone che hanno, come si dice, modulato per un anno, un periodo che magari io ancora non modulavo, avevo agganciato, perché poi io ho agganciato per un sacco di tempo. Sabuca, c'era la via Pulizzetta. Penso che tu consideri che tutti quelli che trasmettevano da Moresso, che modulavano da Moresso, le avevo piantate tutte io le anni. Sound, Danilo Danone, tutte io le avevo messe, tutte quella zona provincia da Lune Sole, stavo marzo, ma ne piantavo due al giorno, addirittura con Daniele ne avevo messo due Stellar sullo stesso tetto, a distanza di 2 metri uno all'altro. Fatti un conto. Erano periodi quelli che si modulava parecchio perché tutti i canali erano pieni, io me lo ricordo, c'era l'imbarazzo della scelta, infatti andavo a scelta, guardavo la gente che mi piaceva, entravo, non entravo in certi canali perché non mi piacevano le persone, magari, e in certi altri entravo. Sì, poi c'erano quei due ragazzi non vedenti, li avevo piantato io le antenne, anche a loro, sullo stesso tetto, due mandorle, una a 5 metri dall'altra, quei due ragazzi non vedenti che suonavano, questi suonavano tutti gli strumenti, dalla chitarra alla tastiera, lo pianoforte, suonavano di tutto. C'hanno dei sensi loro, sono più bravi degli altri, ma io mi ricordo Gennar Ginti, che era non vedente, quello di Via Sorso, Romeo 33, mi pare si chiamava. C'erano tanti, sì, ma questi ragazzi addirittura all'inizio parlavano con dei baracchini normali, quando gli avevano installato l'antenna, poi ci avevano preso tutti e due il 450 con la sintesi vocale. Ce n'erano molti, prima io avevo conosciuto Sabucca che studiava l'agraria dove studiavo io, all'istituto agrario, e ce l'avamo trovati lì proprio all'istituto agrario all'ora della ricreazione e poi siamo diventati amici per la fede, non ci distaccava più nessuno, sempre insieme eravamo. Il padre ha detto, io mi meraviglierei se lo vedessi con una ragazza, lo vedo sempre con Gianni, sempre con Gianni. Ed era un brutto segno, No, non era solo un segno d'amicizia e basta, ma era un vero amico e tuttora lo è, anche se ci siamo visti da poco. Ho trovato la moglie passa però. E gli ho detto, buongiorno Antonio, come va? E lui non mi ha riconosciuto la prima chiamata. E poi ho detto, oh già, tu sei qua, ti voglio vedere, ci dobbiamo trovare qualche giorno. Abbiamo fatto la carambata, ci siamo trovati, siamo andati in campagna sua, siamo stati tutta la sera insieme, ci siamo raccontati tante cose. E niente, ci siamo trovati bene, perché io non ho mai bisticciato con quella persona, non ho mai avuto uno scrizio. E vedi, comunque è una cosa positiva, perché prima o poi con una persona qualche problema te lo crei tu o te lo creano gli altri. Sì, ma infatti adesso è così, purtroppo adesso è così.